Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, benvenuti, grazie per essere con noi. Siamo pronti per trascorrere un'oretta insieme, occuparci della nostra salute e del nostro benessere con Giorgio Mattei in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Possiamo andare a sentire i titoli del nostro sommario. Cervello, tutto quello che gli piace e gli serve per mantenersi in forma. Anche i bambini fanno i calcoli e sono dolori. Cellule staminali. La ricerca è impegnata a conoscerle sempre meglio e i risultati dell'impegno arrivano. Oggi parliamo di lui, del nostro cervello. Sappiamo che, come tutti gli organi, va incontro ad un naturale decadimento. Questo un po' ci spaventa perché il cervello, lo sappiamo, è la cabina di regia della nostra vita di relazione, dei nostri rapporti con gli altri, col mondo esterno. È lui che ci fa amare, soffrire, sentire, vedere, pensare, conoscere, apprendere, ricordare. E sappiamo che però, grazie ai recenti progressi delle neuroscienze, che il nostro cervello è un organo plastico e questo lo rende capace di superare quelli che sembrano dei limiti fisici. Occorre però, come sempre, tenerlo allenato, un po' come si fa con i muscoli. Allora, come esiste un fitness, una palestra per il nostro tono muscolare, così anche il vigore con cui possiamo usufruire del nostro cervello va presidiato e potenziato. Noi impareremo, cercheremo di farlo nel corso della nostra trasmissione, suggerendo attività mirate, ma oggi parleremo anche dei segnali di stanchezza del nostro cervello. Come ho letto in un libro di cui avremo modo di parlare, non è mai troppo presto per prepararsi alla terza età e non è mai troppo tardi per rimediare ai danni che il tempo può arrecare. Saluto subito in studio qua con me la dottoressa Elisabetta Farina. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Responsabile del servizio di riabilitazione e diagnosi dei disturbi cognitivi alla Fondazione Dognocchi. Qua accanto a me ho anche la dottoressa Raffaella Fioravanti, terapista di riabilitazione cognitiva sempre al Dognocchi di Milano. Buongiorno a tutti. Allora, e abbiamo in linea con noi invece il professor Alberto Oliverio, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Psicobiologo all'Università di Roma La Sapienza. Professore, non è mai troppo presto per prepararsi alla terza età e non è mai troppo tardi per rimediare ai danni che il tempo può arrecare, una frase che a lei suona familiare, infatti lo tratta dal suo libro Istruzioni per restare intelligenti, Rizzoli Editori. È vero? Possiamo farcela? Direi di sì, insomma, bisogna sviluppare un atteggiamento sin da, non dico da giovani, ma insomma sin da quando si è adulti, in modo da prevenire eventuali danni per quanto possibile. Non è mai troppo tardi, perché il cervello ha sempre un qualche livello di plasticità, altrimenti appunto non esisterebbero i riabilitatori, e questo va sfruttato sia quando non abbiamo problemi, sia quando questi problemi si possono manifestare nel caso di alcune patologie. Dottoressa Farina e dottoressa Fioravanti, concordate? Possiamo iniziare la trasmissione con questo messaggio positivo? Dottoressa. Assolutamente, e credo che gli ultimi studi sottolineino sempre di più il fatto che il cervello è come una spugna e quindi può, con la sua plasticità, intervenire, diciamo, può migliorare la sua funzionalità anche nel corso degli anni se opportunamente stimolato. Dottoressa Fioravanti, lei è una terapista di riabilitazione cognitiva. In pratica voi che cosa fate? Noi insegniamo alle persone che hanno delle difficoltà oppure che vogliono tenere il loro cervello in forma delle tecniche per migliorare le loro performance in tutte le attività della loro vita quotidiana, sia che abbiano dei bisogni particolari come durante i periodi in cui hanno bisogno di studiare piuttosto che fare dei lavori particolarmente impegnativi, sia solo per mantenere il cervello un pochino più in attività. Allora, se volete saperne di più restate con noi, ma intanto intervenite all'800 24 0024. I messaggi come sempre al 349 238 6666. Però credo sia importante approfittare dei nostri esperti per conoscere un pochino più da vicino il nostro cervello. Professore, noi sappiamo che è diviso in due emisferi, quello destro e quello sinistro, con una struttura che fa da ponte che si chiama corpo calloso. Ma i due emisferi come si differenziano e come si relazionano tra loro? Ma anzitutto c'è una forte differenza, nel senso che metà del corpo viene gestita da un emisfero, quello dall'altra parte, per esempio la metà sinistra del cervello controlla la metà destra del nostro corpo. Sì. E viceversa, la metà destra del cervello controlla la metà sinistra del corpo. E poi Poi un altro aspetto molto importante è che gran parte delle strutture che sono coinvolte nel linguaggio sono a sinistra, e questo spiega perché in alcuni casi, quando si verificano dei danni dell'emisfero sinistro, ci possono essere delle alterazioni o dei deficit del linguaggio. Quindi questa è già una grossa differenza, insomma, tant'è che l'emisfero sinistro è appena più voluminoso di quello destro, proprio per la presenza di questi centri del linguaggio. Dottoressa Farina, come cambia il nostro cervello in funzione dell'età? Beh, nel bambino sicuramente si completa lo sviluppo cerebrale, che è in buona parte avvenuto già nell'epoca prenatale, in modo particolare lo sviluppo delle aree prefrontali, che più delle altre per la loro funzione ci distinguono dalle altre specie animali, non è completo che verso la fine della seconda decade. Nel corso dell'invecchiamento invece il nostro cervello diminuisce il suo volume, lo spessore della corteccia cerebrale si riduce, tutti sappiamo che perdiamo neuroni. Purtuttavia il cervello dell'anziano reagisce a tutto questo, i neuroni aumentano le connessioni. E esiste anche una teoria che potremmo tradurre in italiano la teoria dell'impalcatura, che ci dice proprio che il cervello anziano tende a mantenere il suo equilibrio, probabilmente tramite una maggiore attivazione delle aree prefrontali. Professore, noi sappiamo che il cervello della donna pesa in media circa il 12% in meno di quello dell'uomo, e lo sappiamo bene che fino a non molti decenni fa questo veniva interpretato come il correlato biologico di una presunta superiorità intellettiva dell'uomo rispetto alla donna. Invece abbiamo visto che questa differenza in realtà riflette semplicemente la maggiore taglia corporea del maschio rispetto a quello della femmina nella specie umana. Ma detto questo, alcune differenze piccole ma significative tra cervello femminile e maschile esistono, professore? Beh, giustamente, perché per fortuna, così vi aiutiamo. Anzitutto bisogna dire che i cervelli sono tutti molto diversi gli uni dagli altri, quindi al di là del sesso, se uno prende cervelli diversi troverà appunto, come dire, quasi un'impronta digitale nervosa, nel senso che esistono delle profonde differenze tra età, come diceva appunto la dottoressa Farina, e poi tra individui. Poi tra maschi e femmine sì, ci sono delle differenze, alcune sono legate in gran parte alla sessualità, per esempio il fatto di dover avere dei cicli ovarici e mestruali dipende dal fatto che c'è un meccanismo di orologeria che nel sesso maschile è bloccato. La cosa forse interessante è che quando siamo a livello fetale il nostro cervello è in entrambi i casi, sia nelle femmine che nei maschi, di tipo femminile. Sì. Poi la presenza degli ormoni sessuali maschili secreti dai testicoli fetali blocca questo meccanismo di orologeria. Quindi diciamo c'è una sorta di programma di risparmio, nel senso che dice fai un cervello femminile in entrambi i casi, e poi un atto dovuto è quello che nei maschi questo cervello femminile viene bloccato e si ha un cervello che appunto non ha questo meccanismo di orologeria. Quindi queste sono per le funzioni di tipo riproduttivo sessuale. Poi ci sono delle lievi differenze che riguardano ad esempio, non so, strutture come l'ippocampo, che è una struttura che serve, oltre che per la memoria, per orientarci. Nei maschi questa struttura è un po' più espansa, le donne invece utilizzano varie strutture per orientarsi nello spazio, quindi ci sono delle differenze sul come usiamo il nostro cervello. Dottoressa Fioravanti, se i nostri cervelli, uomini e donne, sono un po' diversi, cambiano anche i modi per mantenerlo in forma? Direi di no, tecniche vanno bene entrambi. Sono unisex. Sì. Invece avrei bisogno della dottoressa Farina per chiedere, considerato il cervello maschile e quello femminile, ci sono delle maggiori predisposizioni ad ammalarsi di questi due tipi di cervelli? Purtroppo per noi donne sì, siamo un po' più soggette a certe patologie neurodegenerative legate all'invecchiamento, che possono determinare una compromissione delle funzioni cognitive, della memoria. In realtà non si sa con sicurezza perché questo avvenga. È stata chiamata in causa la brusca caduta dei livelli ormonali che si verifica durante la menopausa. Anche perché c'erano stati dei dati epidemiologici che suggerivano che la terapia estrogenica sostitutiva della menopausa potesse prevenire questo tipo di malattie. Quando però si è cercato di utilizzare gli estrogeni in senso curativo per le donne affette da deterioramento cognitivo, i risultati sono stati negativi, per cui è un punto ancora da chiarire. Insomma, la relazione relazione non è che la relazione non è chiarissima. È vero che siamo un po' più a rischio. Allora, adesso che del nostro cervello abbiamo acquisito qualche notizia in più, cercheremo di capire cosa gli piace, che cosa lo aiuta ad invecchiare bene. Degli amici del nostro cervello, di tutti i fattori anche che svolgono proprio un'azione protettiva, parleremo diffusamente, vi daremo anche dei consigli mirati. Ma volete anche condividere con noi se avvertite magari qualche dubbio, qualche timore, insomma, se temete che in qualche modo il vostro cervello, la dottoressa Farina e la dottoressa Fioravanti mi perdoneranno, ma perde in qualche modo i colpi, e che cosa fate invece per farlo stare bene, per tenerlo allenato? 800 24 0024, chiamateci e restate con noi. I messaggi come sempre al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di calcoli. I medici americani lanciano un allarme. Aumentano infatti i casi di calcoli renali tra i bambini. Ne parliamo con il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Professor Remuzzi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. L'allarme viene dagli Stati Uniti, da diversi ospedali. C'è un aumento sorprendente del numero di bambini e giovani afflitti da calcoli renali, che è sempre stato considerato un disturbo degli adulti. In un ospedale di Filadelfia una volta si vedevano al massimo 10 bambini all'anno con una colica renale. Dal 2005, hanno contato questi casi, sono 5 alla settimana. E questo è successo in molti altri ospedali. Ma professore, i casi aumentano perché i medici sono più attenti? Non è che i medici ora stanno più attenti, l'aumento è reale. Uno specialista di calcolosi dei bambini ha fatto delle ricerche proprio in questo ospedale di Filadelfia. Lui ha concluso che sono le abitudini alimentari dei bambini ad essere responsabili dell'aumento di calcoli. Oggi mangiano troppi cibi salati e bevono troppo poco. Il troppo sale nella dieta e la poca acqua favoriscono la formazione di calcoli di calcio nelle urine. Hanno visto un bambino di 8 anni con già 4 coliche renali. Era la prima volta. I suoi genitori, 2 insegnanti, sono rimasti sconvolti e terrorizzati dalle urla di dolore e dalla sofferenza del loro bambino. Pensavano avesse l'appendicite, ma era una colica renale. I genitori di questo bimbo hanno altri 4 figli. In famiglia si mangia spesso cibo già pronto, che è proprio quello più ricco di sale. Da quando hanno avuto queste coliche, il modo di mangiare di questo bambino è cambiato. Ha smesso con i cibi ricchi di sale e si è ricordato di portarsi sempre dietro un pochino d'acqua. Non ha più avuto coliche. Professore, ci sono, oltre alle abitudini alimentari, anche delle alterazioni che possono favorire l'insorgenza dei calcoli nei bambini? Come negli adulti, nei bambini e nei ragazzi la colica renale può rivelare che il paziente ha delle alterazioni che favoriscono la formazione di calcoli, ma non è sempre così. La maggior parte dei bambini, adulti, ragazzini e non, che hanno calcoli sono sani. Il consiglio più importante per evitare che si formino i calcoli è il più semplice del mondo: bere molto, almeno un litro di acqua al giorno. Un litro di acqua al giorno in più di quello che uno è abituato a bere. Professor Remuzzi, basta l'acqua o ci sono anche altri liquidi, altre bevande che possono aiutarci? Se a uno piace la limonata, tanto meglio. Il succo di limone è il mezzo migliore per prevenire i calcoli. Professor Remuzzi, io la ringrazio, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie. Grazie, grazie a voi. Pronto soccorso. Cervello, tutti i consigli per mantenerli in forma e soprattutto tutte le cose che a lui piacciono per mantenersi sano, attivo, ai tanti. 824 0024, a disposizione tanti esperti, ve li ricordo rapidamente: il professor Alberto Oliverio, che è psicobiologo all'Università di Roma La Sapienza, autore di un libro molto interessante che si intitola Istruzioni per restare intelligenti, Rizzoli Editori. Abbiamo la dottoressa Elisabetta Farina, che è responsabile del servizio di riabilitazione e diagnosi dei disturbi cognitivi alla Fondazione Dognocchi, e la dottoressa Raffaella Fioravanti, che è terapista sempre al Dognocchi di riabilitazione cognitiva. Ma intanto ho un altro esperto che oggi viene qua come cavia. Alberto Pellai. Ciao, ciao Nicoletta, Alberto. Buongiorno a tutti. Perché proprio a proposito di cervelli in forma c'è una parola che negli ultimi anni ha cominciato a diffondersi e ormai è entrata nel gergo comune: brain training. Esistono videogiochi per questo scopo, programmi informatici, libri, insomma ci sono tanti strumenti disponibili. E la tecnica è quella di definire un'età mentale per chi vi si sottopone la prima volta, per poi allenare il cervello e migliorarla sempre di più. Allora Alberto, intanto che noi continueremo a parlare del nostro cervello, farà questo esperimento. Io ho in mano per la prima volta una scatoletta nera che ha dentro un programma di brain training molto popolare, per cui io, che sono proprio negato per i videogiochi, ma dovrei avere un'ottima età mentale, perché insomma faccio una professione intellettuale, leggo, studio, mi do da fare, vengo a Radio 24, farò questo esperimento, voglio capire il mio cervello che età ha. Poi ve lo dirò in diretta e chiederò a tutti gli esperti se eventualmente, avendo un cervello vecchio, si può fare qualche cosa. Oppure allora Alberto si mette al lavoro e intanto io faccio lavorare anche subito i nostri esperti, perché mens sana in corpore sano, dicevano i latini, e io con questa frase aprirei proprio una finestra sullo stile di vita per individuare quello capace di contrastare fin da quando siamo piccoli, giovani, meglio, gli effetti negativi dell'invecchiamento. Allora, professore Oliverio, io credo che possiamo focalizzare la nostra attenzione su tre aspetti. Il cervello ha bisogno di essere nutrito adeguatamente, ma deve essere anche ben ossigenato e adeguatamente riposato. Queste saranno le nostre tre parole chiave. Allora, professore Oliverio, iniziamo dalla dieta. C'è uno stile alimentare più amico della salute del nostro cervello? Beh, sì, indubbiamente. Bisogna pensare che nei tempi lunghi il cervello, come altri organi, risente dell'eccesso di grassi e di grassi non ideali. Questi cibi grassi tendono appunto a restringere il canale dei vasi sanguigni e quindi a rendere meno ossigenabile il cervello. Certo. Quindi una dieta che sia povera di acidi grassi, quelli che appunto portano ad un aumento del colesterolo, oppure nel caso di persone che hanno una predisposizione familiare in genere all'aumento del colesterolo, diete particolari o eventualmente farmaci particolari. Quindi anzitutto trattarsi bene dal punto di vista alimentare, evitare appunto quel junk food di cui si parlava anche a proposito dei calcoli renali, giustamente, e cercare di mangiare dei cibi che hanno dei principi antiossidanti, anche se non fanno miracoli, però aiutano il cervello a tenere in efficienza i propri neuroni. Quindi per esempio tutti i cibi rossi come i pomodori, i mirtilli, le carote, gli aranci rossi e via dicendo sono... Il colore piace al cervello, dottore, professore. Come? Il colore piace al cervello. Piace al cervello, certo. Ecco, mandiamo questo messaggio. Intanto andiamo da Franco, che ci chiama dalla provincia di Milano, vediamo come possiamo aiutarlo, se invece ci può aiutare lui, magari ha scoperto il modo per mantenere il cervello super attivo. Buongiorno Franco, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno a lei, grazie professore. No, magari avessi trovato un sistema per tenere il cervello allenato. No, l'unica cosa che volevo sapere, cioè ce ne sono tante, ma una tra le tante, è se prima avete accennato a quel discorso dei, diciamo, sistemi per misurare la lucidità del cervello. Sì. Questi sistemi elettronici, ce ne sono anche alcuni che lo allenano. Una volta c'erano le parole crociate, l'enigmistica. Volevo sapere se in effetti questi sistemi aiutano a mantenere il cervello lucido, a mantenere anche una certa memoria nel corso del tempo. Allora, dottoressa Farina, che dice lei? L'utilizzo del mezzo informatico è sicuramente molto interessante. Ci sono anche dei primi studi che dicono che l'utilizzo di programmi di training informatico potrebbero essere utili addirittura nell'iniziale deterioramento cognitivo patologico. Sicuramente dobbiamo avere delle conferme scientifiche in questo campo, e sicuramente ci possono essere degli altri modi per allenare il nostro cervello: andare a teatro, leggere un libro e discuterne con i nostri amici, e anche le classiche parole crociate. Ecco, a proposito di parole crociate, piacciono molto agli ascoltatori di Radio 24, sono arrivati tantissimi messaggi sulle parole crociate, ma per essere efficaci, dottoressa Fioravanti, dobbiamo darci un tempo o uno si può prendere il tempo che vuole? Ma direi che bisogna innanzitutto considerare che andando avanti con l'età una persona può magari metterci un pochino più di tempo di quello che ci metteva prima, senza preoccuparsi che sì, questa cosa sia per forza patologica. Quindi l'importante, direi, allenarle anche con le parole crociate con costanza, aumentando il livello di attenzione e concentrazione. Direi che questo è serve sufficiente. Dottoressa Fioravanti, così rispondiamo a qualche sms del 349-238-6666, imparare delle cose a memoria. Noi siamo venuti da una... voi siete più giovani di me, ma ai miei tempi le maestre facevano imparare a memoria tante poesie, filastrocche, eccetera, e quasi una sorta di allenamento. Adesso vediamo che nei ragazzini, insomma, non mandano più a memoria. Questo può essere un esercizio per tenere allenato il cervello, oppure la ripetizione, no? Quindi quello su cui si basava il nostro metodo di l'unica tecnica che ci insegnavano a scuola, quando andavamo a scuola noi, è sicuramente una delle tecniche per favorire la fase di ritenzione dell'informazione. Non è la sola e non è assolutamente quella più efficace. Direi che ce ne sono altre che si possono, e di cui ne parleremo dopo, più efficaci. Benissimo, noi ne parleremo e parleremo anche con la dottoressa Farina e il professor Oliverio di quanto sia importante tenere ben ossigenato il nostro cervello e soprattutto anche riposato. E lo stress, proprio una battuta, dottoressa Farina, fa invecchiare prima il nostro cervello? O lo rende probabilmente sì, nel senso che nello stress cronico sembra che alcune sostanze che vengono prodotte, ad esempio il cortisolo, possano danneggiare il nostro cervello. È una cosa molto importante. È che lo stress può favorire in persone predisposte la depressione. La depressione è un grande nemico del nostro cervello, è un fattore di rischio per un invecchiamento cerebrale patologico. Siamo qui con carta e penna per prendere dai nostri esperti dei consigli, dei suggerimenti per tenere ben allenato il nostro cervello, per farlo invecchiare bene. Dottoressa Farina, vogliamo occuparci dell'altra parola chiave? Abbiamo detto nutrimento, ma abbiamo detto che un cervello per funzionare bene deve essere anche adeguatamente ossigenato, ed è l'apparato cardiovascolare che assolve a questa funzione. A cosa dobbiamo fare attenzione? Beh, gli studi epidemiologici hanno dimostrato che controllare nella mezza età alcuni fattori di rischio vascolare come l'ipertensione, l'ipercolesterolemia e il diabete può aiutare a prevenire non solo l'infarto cardiaco ma anche l'invecchiamento cerebrale patologico. Un'altra cosa a cui fare molta attenzione è l'abuso di alcol e naturalmente l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Tutto ciò è molto negativo per il nostro cervello. Quindi mi raccomando, attenzione, molto spesso le mamme ci scrivono preoccupate per i loro ragazzi, gli spinelli, l'utilizzo di droghe. Il cervello si cura fin da giovane e questo può poi determinare un effetto negativo più in là negli anni, quindi è importante evitare queste cose. Andiamo ai nostri ascoltatori, ci chiama Marco da Milano. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno. Ci racconti pure Marco. Ma niente, una piccola cosa, io da un po' di tempo, ho 45 anni, da un po' di tempo ho notato, ho proprio dei blackout di memoria, a volte mi scordo il nome delle persone, non sì. Molto spesso, insomma, però mi succede. Io ho sempre imparato i numeri di telefono a memoria, ho sempre avuto poco bisogno delle rubriche, cioè, ultimamente invece mi dimentico anche quelli. Marco, sì. Allora approfittiamo, ed è un invito che rivolgo anche ai nostri ascoltatori, della dottoressa Fioravanti, che ad ogni nostra piccola defaianza può darci sicuramente un consiglio, qualche cosa da fare per non peggiorare la situazione o magari per recuperarla. Dottoressa, Marco, e devo dire siamo in tanti come lui, non so se capita anche a voi che siete addetti ai lavori, il nome della persona conosciuta anche da poco, oppure ci sfugge il numero dove si... Ecco, che cosa si può fare? Ci sono delle memotecniche, vero? Sì, esatto. Buongiorno Marco. Allora, la cosa da imparare a fare è innanzitutto cambiare un pochino l'atteggiamento, cioè se prima ci ricordavamo le cose senza alcuno sforzo volontario, adesso dobbiamo imparare a usare dei trucchetti, chiamiamoli così, per poter memorizzare le informazioni che ci servono. L'esempio che può servire al nostro ascoltatore dei nomi, noi possiamo fare questa cosa. Abbiamo un nome da imparare, facciamo un esempio, ci presentano una persona in ufficio che si chiama Selvaggi e noi possiamo a questo modo cercare all'interno del viso di questa persona un tratto dominante che ci colpisce particolarmente. Ad esempio, se avesse delle sopracciglia molto folte, particolarmente esatto, perché questo ci permette di fare il secondo passo, cioè trasformare il nome di questa persona in qualcosa di concreto, ad esempio un selvaggio, come diceva lei, e immaginare, fare quindi un'immagine mentale di qualcosa di selvaggio, un uomo primitivo, quindi con queste ciglioni molto selvaggio, oppure un copricapo sugli indiani, e fare come ultimo passaggio una fusione delle due immagini, quindi questo selvaggio, ad esempio il copricapo degli indiani, che tipicamente appunto sono selvaggi, sulle sopracciglia di questa persona. Quando noi vedremo questa persona ci verrà in mente questo passaggio. Un altro trucco quando si applicano a questa tecnica è ripetere molte volte il nome della persona che ci viene presentata, perché spesso è anche un problema di registrazione iniziale. Una persona mi viene presentata, io non faccio attenzione al nome e poi me lo dimentico immediatamente. Andiamo a Prato. Ci chiama Fabio. Fabio, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Che succede, Fabio? Succede che da qualche anno faccio uso di antidepressivi. Sì. Non per diciamo di divertimento, ma perché ne... Certo, perché le sono stati prescritti. Ecco, io volevo sapere dalla dottoressa se con l'andare degli anni l'antidepressivo deteriora il cervello, e poi volevo sapere anche se c'è, se ci sono degli alimenti che aiutano maggiormente il cervello, delle vitamine in particolare. Grazie. Grazie a lei, Fabio. Allora, dottoressa Farina e professor Oliverio. Dottoressa Farina. Ma direi che no, assolutamente non c'è nessuna evidenza che i farmaci antidepressivi siano negativi per il cervello, nel senso dell'invecchiamento cerebrale. Anzi, curare la depressione è molto importante perché, come dicevo prima, la depressione è un fattore di rischio per un cattivo invecchiamento cerebrale. E per quanto riguarda i cibi, l'abbiamo già un po' detto prima, cioè tutti i cibi vegetali ricchi di vitamine, il pesce che contiene i famosi omega 3, anche quello può dare un aiuto, insomma, quello che ci dicevano una volta, mangia il pesce che diventi intelligente. Non è per il fosforo, forse più per gli omega 3. Non ci avevano proprio preso, ma c'erano andati vicino. Professore Oliverio, abbiamo accennato allo stress. Chi nel quotidiano non ha occasioni di stress, come è una componente della nostra vita, come fare amicizia tra lo stress e un cervello in forma? Che cosa si può fare? Ma un po' di stress è inevitabile. Stress è una parola, diciamo, che comprende tutto, e appunto, come lei diceva, nella vita quotidiana gli stress sono immancabili, altrimenti vivremo in una specie di acquario e forse la vita sarebbe anche noiosa. Certo. Invece quando lo stress soprattutto diventa cronico, come dicevamo prima, questo è un aspetto negativo. Certo, ognuno percepisce come stressante alcune situazioni che per altri possono non lo essere sono, meno stressanti, certo. No? Ovviamente. Però quando si invecchia, lo stress cronico ha un effetto proprio sui neuroni cerebrali, in particolare su questa struttura, l'ippocampo, che è coinvolta nei processi di memoria. Quindi bisogna cercare, quando si è anziani, di evitare quelle situazioni che ci possono stressare, che a volte sono banali. Mettiamo, per una persona già un po' anzianotta, ecco, intraprendere un viaggio può essere associata ad un qualche livello di stress, quindi bisogna prendere i propri tempi e soprattutto non avere paura di avere dei ritmi diversi, perché ogni età ha i suoi ritmi, no? Non pretendiamo che un neonato o un bambino di 7 anni abbiano le capacità di un adulto, e non pretendiamo che un anziano abbia le capacità appunto di un ragazzino o di un adulto in giovane età. Bisogna saper vivere la propria età con quelle caratteristiche che le sono proprie. Questo riduce, se uno si accetta, diciamo, se uno non pensa di dover continuare a rassomigliare a un ragazzino o a un ragazzo, insomma, facilita appunto a gestire la giornata e le situazioni potenzialmente stressanti. Io vorrei approfittare della vostra presenza qui per anche chiarire qual è il limite tra fisiologico e patologico. Dottoressa Farina, noi sappiamo che con il tempo un po' la memoria, no, si appanna un po', così come la concentrazione diventa più difficile, e anche apprendere nuove cose quando siamo un po' avanti con gli anni ci sembra più faticoso. Naturalmente questo in parte è la nostra storia. Il professore infatti diceva che bisogna un po' accettare le fasi della vita. Assolutamente. Però io non vorrei trascurare invece quelli che possono essere dei segnali da considerare e da riferire al medico curante. Dottoressa Farina, iniziamo dalla memoria? Beh, sia per la memoria che anche per la concentrazione, noi abbiamo a disposizione, noi medici, degli strumenti specifici, i test neuropsicologici, che ci permettono di valutare la performance del paziente in maniera standardizzata, cioè confrontandolo con una popolazione di riferimento della stessa età e scolarità. E così ci possiamo rendere conto se la sua prestazione è comunque nei limiti fisiologici per quell'età, oppure se al contrario è patologica. Certo. E naturalmente ci preoccupiamo di più. Professore Oliverio, ma concretamente che cosa può essere? Chi si dimentica dove mette la macchina tutti i giorni, la cerca come faccio io ogni giorno quando esco dalla redazione girando le chiavi, chi si dimentica invece deve sempre controllare di aver spento il gas, oppure ci sono invece dei segnali più preoccupanti, nel senso magari un smarrimento temporale della persona che non sa più dove si trova o che cosa sta facendo. Sono tutte piccole sfumature, segnali che ci dicono qualche cosa, ma quando devono spingerci invece a prendere in considerazione la possibilità di parlarne con il medico, di parlarne con un esperto? Beh, entro certi limiti alcune delle cose che lei diceva sono normali, per esempio dimenticarsi i cognomi è qualche cosa che si verifica già in età non senili, già un adulto può dimenticare alcuni cognomi, avere così dei piccoli vuoti di memoria, soprattutto perché non ha prestato attenzione o non li ha associati appunto in modo debito. Dimenticarsi dove uno ha messo le chiavi della macchina, ma questo può succedere a tutti senza che questo sia un segnale patologico. Invece se uno ha dei vuoti, dei sensi di spaesamento, non sa dove si trova, ecco, quello è un segnale da non sottovalutare. Perché indipendentemente dall'età, vero professore? Sì, indipendentemente dall'età, perché poi ogni età, certo, può avere dei suoi aspetti, diciamo, che si avvicinano alla patologia, però con l'andare avanti degli anni questi possono essere dei campanelli di allarme. Non bisogna troppo preoccuparsi per queste piccole defaillance che sono normali, appunto, se io mi dimentico il nome di una persona e va bene. Glielo richiederò. Certo, se poi sono professionalmente implicato, diciamo, con nuove conoscenze, cioè bisogna che me le scriva, certo, con l'età, questo è un aiuto importante, o che faccia delle associazioni, ma soprattutto che non, diciamo, non entrare in crisi quando si verificano alcuni di questi piccoli zoppie, diciamole così, della memoria o del cervello. Invece altri segnali sono da prendere in considerazione, e ci sono appunto i neuropsicologi, delle persone che fanno quello di professione, che possono valutare quanto rientrino in un momento particolare di stress nella normalità, oppure debbano essere prese in considerazione. Intanto un test di autovalutazione lo troverete sulla pagina di Essere Benessere, naturalmente non fa diagnosi, ce l'hanno messa a disposizione la dottoressa Farina e la dottoressa Fioravanti, voi potete farlo e in qualche modo rendervi conto se la vostra situazione, se siete in forma, il vostro cervello è in forma, oppure se magari dovrebbe essere più riposato, più allenato, insomma dovete prendervi più cura di lui. Adesso noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico, 824 0024, poi sentiremo Rosanna da Brescia, Diana da Cagliari, Annabella da Milano, tutte donne, perché forse sono rimaste colpite dalla dottoressa Farina che diceva che obiettivamente il cervello di noi donne invecchia un pochino. No, no? Un pochino prima di quello maschile, oppure diciamo che è un pochino più a rischio per alcune patologie, però c'è anche da dire che le donne si curano di più degli uomini. Magnifico, ecco, 1-0. Eccoci tornati insieme con Rosanna che ci chiama da Brescia. Buongiorno e benvenuta, Rosanna. Buongiorno a voi. Ringrazio perché è una trasmissione veramente interessante, argomento soprattutto molto sentito. Ecco, io ho 61 anni e anch'io ho sentito il problema del cervello che si andava pian piano a riposare, però fortunatamente sono stata invogliata a prendere il computer e a fare qualcosa con il computer, cioè ho un sito col quale appunto scrivo degli articoli, faccio delle ricerche, e questo mi ha portato a avere un piccolo ritorno di memoria che è stato molto favorevole, ecco. Brava Rosanna, vediamo se la tecnica di Rosanna funziona davvero o è solamente una cosa che funziona con lei. Dottoressa Fioravanti, tenersi impegnata, usare il PC può essere utile sicuramente? Sicuramente sì, rientra in tutte quelle attività che noi possiamo fare per mantenere il nostro cervello in allenamento. Nel caso della signora è andata semplicemente a recuperare tutta una serie di informazioni che evidentemente lei aveva già, ma che faceva un po' fatica a recuperare. Riprendendo a fare delle attività che aveva lasciato un po' perdere o facendone delle nuove, quindi costringendosi a imparare cose nuove, è riuscita a riacquistare. Perché questo è un trucco anche, imparare cose nuove, dottoressa Farina? Beh, questo è molto stimolante per il nostro cervello, obbligarsi ad imparare cose nuove naturalmente con i propri tempi e con l'aiuto delle tecniche di cui ha parlato la dottoressa Fioravanti, però il nuovo è stimolante per il nostro cervello, un segnale negativo Ecco, è quando la persona non ha più voglia di imparare cose nuove, non ha più voglia di fare cose nuove, si crogiola nella routine. Ecco, questo è un segnale abbastanza negativo. Professor Oliverio, concorda? Sì, senz'altro. Bisogna cercare di cambiare un po' le nostre abitudini, non essere troppo ripetitivi, cosa a cui un po' si tende ad adagiarsi con l'età. E poi una cosa importante, ecco, anche per la memoria e la motivazione. Se uno è demotivato, se uno è un po' depresso, certo, se uno si lascia andare, ovviamente tutta la nostra mente ne risente, quindi bisogna cercare appunto di interessarsi a qualche cosa. E questo deve essere anche programmato in anticipo. Non si può dire quando sarò in pensione, per esempio, mi metterò a leggere. Beh, bisogna avere iniziare un'abitudine alla lettura e certo, così via. Insomma. Andiamo a Cagliari, ci aspetta Diana, 800-24-0024. Diana, buongiorno. Buongiorno e complimenti. Molto interessante la trasmissione. Dunque, io ho 60 anni e mi accorgo di avere qualche problemino. Tipo, mi capita spesso, specialmente certi giorni, di dire il contrario di quello che voglio dire. Un esempio, devo dire bello e dico brutto, oppure buono, cattivo. Questo mi turba un po'. E poi volevo sapere se il sudoku, il gioco il sudoku, aiuta. Ho sentito che da qualcuno che aiuta a tenere la memoria, diciamo, allenata. Fresca, lei gioca a sudoku? Il gioco sudoku, sì. Allora, va bene? Facciamo rispondere subito ai nostri esperti. Dottoressa Farina, una parola al posto dell'altra, di significato opposto, che cosa può essere? Beh, anche questo fino a certi limiti comunque è fisiologico, può capitare. Nel nostro cervello le parole sono organizzate in famiglie, quindi comunque gli opposti hanno una forte relazione fra loro e può capitare di scambiare una parola per un'altra. La cosa diventa preoccupante solamente se questo disturbo persiste, diventa sempre più frequente. Quotidiano, insomma, diventa una cosa frequente. Lei gioca sudoku, dottoressa Fioravanti, lo consiglia per tenersi in allenamento o giochi simili? Io sì, lo uso il sudoku anche con i miei pazienti, quindi anche con persone che hanno dei disturbi patologici. È un buon esercizio soprattutto di ragionamento e di concentrazione, quindi attenzione sostenuta più che di memoria in se stessa, perché la memoria qui non entra tanto in gioco. È una delle tante attività che si possono fare per stimolare per le funzioni cognitive. Sì. Bene, andiamo ad Annabella che ci chiama da Milano e poi è entrato Alberto Pellai. Vedo hai la faccia un po' preoccupata, Alberto? Ma poi discuterò. Vediamo. Annabella, buongiorno. Buongiorno. Che succede di lì? Mi sente? Io benissimo, Annabella. Ah, bene. Io la sento un po' lontana. Mi avvicino. Senta, buongiorno. Io ho 73 anni. Sì. Ecco, telefonavo per dirle che senti, il problema appunto della memoria, eccetera. Io faccio tantissime cose, no? Sì. Tra cui parole incrociate, ricamo, giardinaggio, che non c'entra niente, però mi tiene attiva comunque. Sono appassionatissima di cinema. Sì. Molte volte voglio ricordare dei nomi di attori e mi sfuggono. Anche se ci penso, mi sforzo tremendamente, non mi viene. Poi dopo un po' viene il flash. Sì. E uno se lo ricorda. Ecco. Faccio anche fatica a memorizzare i nomi, come prima sentivo. Sì. Nelle presentazioni. Ecco, forse perché non stiamo tanto attenti. Infatti, Annabella, perché non stiamo attenti? Mi sembra che Annabella ci abbia fornito un ventaglio di attività per mantenersi in forma. Abbiamo detto mens sana in corpore sana, fa anche giardinaggio, bisognerebbe fare anche un po' di attività fisica. Assolutamente sì, è dimostrato che l'attività fisica è benefica per il nostro cervello perché stimola la produzione di sostanze neurotrofiche. Questa è una riscoperta degli ultimi anni, ma lo dicevano appunto già secoli fa. Quindi, sana in corpore allora, sana. Devo dire che Alberto Pellai di esercizio fisico ne fa molto, corre, si tiene in forma. Vediamo che cosa dice, combinato. Cosa hai combinato con questo test. Allora, guarda, ho fatto una prima prova al brain training, mi proponeva, sono entrato nel percorso che mi offriva, mi ha fatto fare una cosa che si chiama morra vocale. Sì. E per me è stata disastrosa. Cos'è perché la morra vocale? Praticamente giochi alla morra, loro ti fanno vedere le immagini, foglio, sì, forbice oppure sasso, e ti dice devi perdere o devi vincere, quindi in base al simbolo che ti esce tu devi dare l'esatto opposto per vincere o per perdere in base al comando della macchina, e io in realtà ho fatto un disastro, per cui lì l'età cerebrale che è venuta fuori, 80 anni, io non ho 80 anni, ne ho molti meno, però io a quel punto ho detto faccio l'altro percorso, perché sì, potevo anche misurare la mia età cerebrale in un altro modo. Era tutta una serie di giochi matematici, prove di prontezza eccetera, sì, e lì sono venuto fuori più giovane di quasi 8 anni rispetto alla mia età vera, quindi insomma da una parte ero disperato, dall'altra mi sono un po' rinfrancato. Qual è la mia vera età mentale? Chiediamolo ai nostri ospiti. Allora abbiamo veramente un pochino di confusione, perché Alberto si sente più giovane per alcune attività e per altre invece ha un'età mentale superiore alla sua età anagrafica. Facciamo un giro di tavolo. Professor Oliverio, devo preoccuparmi per Alberto oppure... No, penso che un po' questi test bisogna prenderli, questi test elettronici, no, bisogna prenderli un pochettino con le pinze. Mm. In genere, quando quello che si è visto è che quando li si ripratica, così, si diventa più intelligenti, tra virgolette, si sviluppa la memoria, ma spesso l'abilità è specifica per il test, insomma si impara a farlo meglio. Sì. Non è detto che questo venga portato, trasportato su altre situazioni, abilità. Comunque, ecco, non so se Alberto Pellai fa la media degli 80 anni e l'altra età arriva alla temo sua di età. No, temo di no. Allora, dottoressa Farina, dottoressa Fioravanti, in conclusione di questa trasmissione, Alberto, lo rassicuriamo, può continuare ad allenarsi e comunque... No? Sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto il professor Oliverio. Vorrei anche dire che ognuno di noi ha i suoi punti forti e i suoi punti deboli, cioè il nostro cervello svolge con particolare efficienza determinate funzioni e magari un po' meno altre a cui siamo meno abituati. Questo è assolutamente normale, magari per il suo lavoro avrà sviluppato più la parte matematica e un po' meno questa parte verbale. Certo, dottoressa Fioravanti, rassicuriamo, sì, coloro anche che fanno questi giochini, si impegnano. Forse qui possiamo dare solo come consiglio che questi giochini si vanno bene come tanti altri, però forse le mnemotecniche di cui abbiamo solo un po' accennato invece ci sono più spendibili in tutte le attività. Una volta imparate si possono utilizzare a prescindere dall'attività per la quale sono state utilizzate. È proprio un bastoncino, una stampella sì, che ci aiuta a camminare sempre più spediti. Allora io ringrazio i miei esperti, ringrazio Alberto che si è prestato, intanto ha conosciuto qualcosa di più di te, no? Certo. È stata una bella occasione. Intanto io vi ringrazio, professore, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona, buona giornata alla dottoressa Farina e alla dottoressa Fioravanti. Grazie. Io vi aspetto come sempre domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.